Adesso passiamo a una cantante che ha fatto già cronaca in questi giorni. Dall'anno scorso abbiamo dato il via a una simpatica iniziativa nell'ambito del festival. Viene anche eletta grazie all'elezione da parte delle lettrici di un settimanale e da parte dei giornalisti specializzati che sono qui al festival, la cantante più elegante, la cantante che ha la maggiore personalità. E quest'anno l'ha vinto la cantante che ascolteremo ora. L'avrete già appreso dai giornali che la vincitrice di questo titolo particolare, Lady Eleganza, possiamo chiamarlo, è Milva, che adesso ascolteremo nell'interpretazione della canzone di Albertelli Colonnello, Da troppo tempo. La canzone sarà diretta dal maestro Natale Massara e invitiamo la bella Milva, felice di aver vinto questo titolo. Troppo tempo mi trascuro, questo sì, ma mi sorprendo anch'io di essere così. Ormai non esco quasi più, ho perso il gusto a tutto, ma se c'è chi ha colpa, quello sei tu. Da troppo tempo son cambiata, e sai perché? Tutto il mio slancio si è spezzato contro te. Sì, tu sei forte più di me, non domandarmelo però, questo piacere non te lo do. Se lo vorrei, credi ho fatto l'impossibile, ma un discorso insieme a te in fondo si esaurisce dopo qualche frase un po' banale, ed invece io, e lo sa Dio, troppo tempo ho sciolto il nodo dentro cui mi dibattevo per uscirne, adesso sai, mi sembrerebbe quasi di no, se ci penso resto qui, io me ne vado.